a certe domande. Adesso mio zio sta per diventare nonno. Sì, mio cugino Enzo sta per avere un figlio. È mio nipote. Sto per diventare zio. Io mi chiedo, chissà se fra 30 anni anche mio nipote mi dirà: ma perché continuavate a bruciare il petrolio, a distruggere i boschi, a distruggere le foreste? E io dovrò allargare le braccia a certe domande. C'è un piccolo epilogo. Il PT, colato dai distillatori, perso dai condensatori, rovesciato durante le esplosioni dei reattori, oppure lavato via dalle cisterne. Il PT impregna ancora il terreno su cui sorge la SLOI. 180 tonnellate. Sotto il terreno è poroso per circa 20 metri. Poi c'è un finissimo strato di argilla impermeabile e sotto passa la falda acquifera che alimenta l'Adige. 180 tonnellate sono sufficienti per avvelenare l'Adige, tutta la valle dell'Adige, giù fino all'Adriatico, fino alle petroliere che si puliscono davanti al Lido di Venezia. Dalla compagnia Ardito Desio, lo spettacolo Sloy Machine di Michela Marelli e Andrea Brunello, con Andrea Brunello per la regia di Michela Marelli. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Carla Ceravolo del Teatro di Documenti, Rosalia Pasqualino di Marineo della Fondazione Piero Manzoni e l'autore e regista Filippo Toldi per presentare l'evento Dialoghi sulla merda d'artista. A Roma, Teatro di Documenti, 5 e 6 febbraio 2022, di cosa si tratta? Il 2021 è stato il 60° anniversario della Merda d'artista, l'opera più famosa di Piero Manzoni, che Manzoni fa nel maggio del 61, e quindi la Fondazione ha messo in piedi una serie di iniziative per ricordarla, celebrarla, raccontarla meglio, che vanno da maggio a maggio prossimo e poi chissà, magari qualcuna continuerà. All'interno di queste iniziative ha pensato anche, c'è avuto proprio un po' all'inizio un'idea vaga di qualcosa per il teatro, ed è stato lì che per una serie di ragioni un amico comune che se ne è parlato con Filippo, si è proposto a Filippo di scrivere qualcosa, e non so se adesso Filippo vuoi andare avanti a raccontare tu. Sì, certo, l'amico comune che poi, insomma, Paolo Giubileo, mi ha contattato, mi ha detto queste cose. All'inizio è stato un po', non dico uno spavento, però la prima reazione è detto: oddio, cosa scrivo? Poi non mi veniva in mente uno spettacolo teatrale fatto, magari sì, sulla vita di un artista, sì, ma non su una singola opera. E allora cosa è successo? Che Rosalia mi ha mandato dalla fondazione tutta una serie di materiali, libri, ma anche gadget, anche immagini sulla merda d'artista. Io Manzoni lo conoscevo, però avevo bisogno di qualcosa di più perché forse mi venissero delle idee. Ho cominciato a fare ricerca, come sempre dalla ricerca poi nascono comunque, non dico idee, ma se non altro stimoli, curiosità. E da lì è partita poi la scrittura di questi dialoghi immaginari che fossero legati alla merda d'artista. Non sono dialoghi sulla merda d'artista, sono dialoghi che sono partiti da tutte quelle sollecitazioni che l'opera provoca. Il primo dialogo l'ho immaginato ambientato in un ufficio del Parlamento italiano nel 1971, quando è stata presentata un'interrogazione parlamentare proprio riguardante la merda, e quindi mi sono detto: questo parlamentare che sta per presentare questa interrogazione la dovrà pur scrivere. E quindi ho immaginato una scena tra lui e il suo assistente mentre preparano l'interrogazione da presentare riguardo appunto alla merda d'artista. Il secondo dialogo invece addirittura si svolge nel 1224 sulla Verna, perché mi ha colpito una frase di Flaminio Gualdoni proprio riguardo alla merda d'artista, e che in qualche modo parla di quel sentimento che devono suscitare le reliquie, quindi l'opera d'arte, in questo caso la merda d'artista lo porta all'estremo questo concetto, come evoluzione ultima del culto delle reliquie. Quindi in un mondo laico, in un mondo appunto come quello del Novecento, ma anche del nostro secolo, l'artista ti prende il posto del santo e quindi quello che fa l'artista diventa una reliquia in qualche modo, e noi lo possiamo anche vedere anche nella vita di tutti i giorni, secondo me, non solo l'artista ma certi personaggi. E quindi mi sono detto, vabbè, reliquia, il santo per eccellenza, e ho immaginato un dialogo tra lui e il suo confratello che forse più si è preso l'incarico di costruire e promuovere l'immagine di San Francesco, cioè il confratello Elia da Cortona. Il terzo dialogo invece siamo nei nostri giorni tra un rettore di un'università e il direttore del Dipartimento di Economia. Questo è partito dalla notizia che Piero Manzoni aveva dato della sua opera una valutazione che doveva essere pari a quella dell'oro, vale a dire il presunto contenuto della scatoletta sono 30 grammi e quindi la sua quotazione andava di pari passo con quella dell'oro. 30 grammi di merda d'artista valgono tanto quanto 30 grammi d'oro. E da lì quindi tutta una considerazione sul rapporto tra arte ed economia. Perché il teatro di documenti e come si articoleranno le due giornate? Il teatro di documenti è stato scelto da Filippo e Rosalia e noi siamo contentissimi che l'arte visiva venga e si sposi con l'arte teatrale e soprattutto questa arte concettuale di Piero Manzoni in uno spazio rarefatto e altrettanto concettuale di Luciano Damiani. Le due serate in realtà non saranno due serate, una è una serata il sabato 5 febbraio alle ore 20:45 e la domenica 6 febbraio è pomeridiana alle 17:30. Ci sarà una parte dedicata all'incontro delle opere d'arte, naturalmente delle opere riprodotte, dove gli intervenuti potranno rapportarsi con queste opere fino poi ad arrivare allo spettacolo nella sala Avorio Superiore. Verranno utilizzati e movimentati tutti i meccanismi del teatro e siamo veramente felici che la merda d'artista arrivi in teatro. Si sa che il teatro, quando inizia uno spettacolo e gli attori devono entrare in scena, si fanno sempre gli auguri che ci sia tanta merda. E quindi noi siamo veramente contenti e speriamo che questo porti veramente molto buono. Chiuderei con la Fondazione Piero Manzoni. Quali sono le attività di questa struttura? Di solito faccio una lezione di un'ora e mezza, due ore per spiegare cosa fa una fondazione, quindi non so se veramente lo vuole sapere adesso, ma è molto difficile riassumerle. Diciamo che partono dalla ricerca storica, quindi il recupero di documentazione di tutto il materiale che riguarda Manzoni, la sua vita e le sue opere, a poi tutta una serie di cose che sono la consulenza per i restauri, la conservazione, l'organizzazione di mostre, fornire materiale a chi sta scrivendo libri eccetera, fino a spaziare anche in cose invece un po' più particolari, come abbiamo per esempio un Kid Labs per i bambini, oppure questa è la prima volta che ci occupiamo di teatro e per ora è stato un innamoramento immediato. Insomma, questo è detto veramente molto in breve, riassumendo molto. Ci lasciate tutti i riferimenti web per saperne di più sia sulla fondazione che sull'evento al teatro? Abbiamo un sito della fondazione che è proprio www.pieromanzoni.org e un sito dedicato alla merda d'artista www.merdadartista.org. Sul sito della merda d'artista, tra l'altro, c'è una sezione che si chiama Agenda, dove c'è scritto tutto quello che riguarda questo spettacolo. Abbiamo anche una pagina Instagram dove ci sono un po' le informazioni sull'evento e un profilo Instagram. Sul teatro c'è, sul sito ci sono tutte, c'è la locandina e tutte le indicazioni per lo spettacolo e si può scrivere a teatrodidocumenti@libero.it oppure visitare il sito www.teatrodidocumenti.it. L'evento Dialoghi sulla merda d'artista a Roma, Teatro di Documenti, 5-6 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Carla Ceravolo del Teatro di Documenti, a Rosalia Pasqualino Di Marineo della Fondazione Piero Manzoni e all'autore e regista Filippo Soldi. A presto! Grazie. Grazie. Grazie. con Valerio Gatto Bonanni, autore, coregista e attore dello spettacolo Siamo Moltitudini, batteri, simbiosi e la vita che non vediamo, un progetto di Semivolanti Altri Mondi Bike Tour a Roma, Fortezza Est, dal 3 al 5 febbraio 2022. Ben trovato! Ben trovati a tutti e a tutte, è sempre un piacere stare qua su Radio Onda Rossa. Ce ne parli? Questo è il secondo capitolo di una divulgazione scientifica giocosa che noi l'estate portiamo in giro in bicicletta, come scelta anche ecologica e sostenibile. E in questo nuovo spettacolo ci siamo proprio fissati sui batteri, ma poi abbiamo iniziato a studiare anche virus e abbiamo scoperto che i batteri sono ovunque, attorno a noi, dentro di noi. I prossimi alieni che verranno scoperti sono sicuramente dei batteri, e anzi molto probabilmente, perché la scienza non ha certezze ma parla di probabilità. Ecco, quindi molto molto probabilmente i prossimi alieni saranno dei batteri e noi li raccontiamo in maniera giocosa, divertente. E poi l'altra cosa che ci ha molto colpito è la presenza simbiotica che i batteri hanno con tutti gli organismi viventi, che siano piante, che siano insetti, che siano animali e che sia noi umani. Per questo si può dire che dentro il nostro corpo c'è questo gruppo di batteri, questo ecosistema complessissimo di batteri, muffe, virus, funghi, che pesa 2,5 kg, ma che in realtà è fondamentale per il sistema immunitario, per la regolazione delle ossa, per chiaramente la digestione, ma anche per la produzione delle emozioni. Per questo quando noi scherzando diciamo che ci abbiamo dentro una sorta di valigetta, una sorta di ospite, ed è anche il titolo dello spettacolo, perché ci sentiamo unici, meravigliosi, ma in realtà noi già nel nostro corpo siamo un insieme di diversità, una moltitudine di elementi che vivono dentro di noi e che riusciamo bene ad andare avanti, soprattutto se c'è un'armonia. Come nasceva tutto? Il progetto nasce al Teatro Valle Occupato perché il primo progetto è Altri Mondi Bike Tour, organizzammo una giornata sulle biciclette, quindi da lì vedere delle bici sul palco, ho detto vabbè, ma perché non andiamo noi in bici a portare il teatro? E siccome erano dei temi, quelli delle avanguardie scientifiche sull'intelligenza delle piante, le società degli animali, che ci stava molto fomentando, allora poi abbiamo iniziato a studiarne di più, a metterlo insieme e a creare un primo spettacolo. Poi durante questo studio pazzo e disperato che è durato più o meno 2-3 anni, nel 2017 nasce lo spettacolo e quando abbiamo finito di studiare abbiamo notato che i batteri stavano ovunque, in ogni cosa che studiavamo, dalle ipotesi di vita su altri pianeti appunto alle piante e agli animali. A quel punto abbiamo detto vabbè, ma parliamo dei batteri, anche perché poi i batteri sono totalmente comunitari come organizzazione, come modo di fare, sono totalmente mutualistici, quindi abbiamo detto ragazzi, ma i batteri sono gli unici comunisti riusciti, bisogna proprio idolatrarli, sono bravissimi. E da lì siamo diventati dei nerd sui batteri e poi in realtà anche su virus. Tutto ciò chiaramente prima che scoppiasse la pandemia, quindi insomma ci sentiamo pure un po' precursori. Come avete pensato la messa in scena? Sono due personaggi che non dirò chi sono perché sennò svelo, che però fanno una sorta di excursus usando oggetti, usando sketch comici e parlano di questi temi, ma anche dei temi, dei pilastri della vita. Siccome ci piace molto passare dal microcosmo al macrocosmo, spesso facciamo anche delle divagazioni parlando di altri pianeti o comunque del cosmo attorno a noi. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Potete andare sul sito di fortezzaest.it e lì ci sono tutti i modi per prenotarvi allo spettacolo, chiamarli o mandare una mail. Invece se volete avere maggiori informazioni, capire questo progetto di cui siamo moltitudini, appunto il secondo capitolo, andate su altrimondibiketour.it e c'è anche una pagina Facebook piena di contenuti con ricerche, articoli, cose varie. Lo spettacolo Siamo Moltitudini, batteri, simbiosi e la vita che non vediamo, un progetto di Semivolanti Altri Mondi Bike Tour a Roma, a Fortezza Est, dal 3 al 5 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autore, coregista e attore Valerio Gatto Bonanni. Alla prossima! Alla prossima, grazie, buona giornata a tutti e a tutte. con Veronica Liberale per parlarci del suo progetto di crowdfunding per uno spettacolo dal titolo Gregory, una storia di famiglia. Ben trovata! Grazie, ben trovati, grazie, è un piacere ritornare. Ci parli di quest'idea? È un testo che ho scritto ed è la storia appunto di una famiglia in cui nasce un bambino con lo spettro autistico, un bambino autistico, quindi si parla di disabilità, di ciò che accade all'interno di un nucleo familiare quando nasce questo componente nuovo, quindi con tutte le gioie che una nascita porta, quindi le aspettative, i sogni che in un momento vengono poi infranti per la scoperta che questo bambino è diverso, quindi l'accettazione, tutti i problemi che nascono, ma si parla ovviamente di questa tematica anche con ironia, utilizzando il linguaggio della commedia, anche con speranza, cioè una sorta di lutto, chiamiamolo così, per poi rinascere e magari migliorare anche. E si parla ovviamente di inclusione e nasce perché insomma io ho un figlio autistico, un bambino meraviglioso di 9 anni, sono un'autrice teatrale, quindi prima o poi dovevo affrontare questo tema e ovviamente non è la mia storia, è una storia inventata, però nasce insomma sulla base delle esperienze, delle persone che ho incontrato in questi anni e ovviamente non potevo raccontare la mia storia perché la mia storia è in evoluzione, però ho voluto raccontare la storia di una famiglia tipo e anche sulla base della mia esperienza e quindi ho scritto questo testo, l'ho fatto leggere a un regista, Nicola Pistoia, si è innamorato del progetto. Ora sappiamo tutti, per la pandemia che ha colpito il teatro, è difficile trovare delle produzioni in questo periodo, però siccome ho trovato un cast che ha appoggiato il progetto, un regista che si è innamorato del testo, pur non avendo produzione, un teatro che ci ospita, che è il Teatro dei Servi, allora ho fatto questa raccolta, anche consigliata da altri colleghi che già l'avevano fatta, questa produzione dal basso per raccogliere i fondi per le spese di allestimento. E devo dire che sta andando abbastanza bene, quindi lo spettacolo sicuramente si farà, debutterà il 17 febbraio al Teatro dei Servi fino al 6 marzo. Come avete pensato la messa in scena? Va diciamo a scardinare un po' la tipica messa in scena tradizionale, nel senso che è una storia familiare, quindi ci sono varie location, c'è la famiglia, c'è la casa di famiglia, c'è la ferramenta del nonno di questo bambino, c'è il campo da calcio dove il padre allena una scuola, quindi ci sono varie location, però tutte queste verranno rappresentate in maniera molto stilizzata attraverso delle pedane, sorta di piccoli ring, come se i protagonisti di questa storia sono tutti delle isole, no? Perché poi alla fine c'è pure una cosa simbolica per cui siamo tante isole, no? Che ci incontriamo e in questo c'è anche insomma di mezzo anche la sindrome dello spettro autistico, che è una sindrome che colpisce la comunicazione col resto del mondo, no? Che isola un po' la persona. Quindi c'è questa scelta, queste pedane che possono diventare appunto dei ring dove si vive e le persone si scontrano e dall'altra parte sono anche tante isole e che diventano un arcipelago. Questa è l'idea di allestimento del regista e mi sembra molto molto interessante. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Se volete insomma donare oppure condividere questa raccolta fondi, potete scrivere appunto Gregory, una storia di famiglia, e viene insomma il link della raccolta fondi. Poi noi saremo in scena appunto al Teatro dei Servi dal 17 febbraio al 6 marzo, tutte le sere con domenica pomeridiana, quindi vi aspettiamo per questo spettacolo che noi vorremmo anche insomma portare nelle scuole per sensibilizzare l'opinione pubblica su una sindrome che veramente è difficile da capire proprio perché è così particolare e sono così tutti diversi, no? I ragazzi con lo spettro autistico sono tutti diversi dall'altro, anche se hanno degli elementi in comune, sono tutte persone diverse. E poi un'altra cosa, e poi mi piacerebbe mettere a disposizione il palcoscenico la sera dopo ogni spettacolo, facendo salire sul palco delle associazioni che si occupano appunto di autismo, di disabilità, e dare la parola a loro magari e parlare dei loro progetti. Questa è una cosa che mi piacerebbe fare, ospitare, quindi insomma anche se ci sono associazioni che ascoltano in questo momento e vogliono mettersi in contatto con me e avere a disposizione il foyer per un'ulteriore raccolta fondi o salire sul palco alla fine dello spettacolo per parlare dei loro progetti, li aspetto, insomma mi piacerebbe. Il teatro lo fa normalmente, poi farlo in uno spettacolo che si parla di questo mi sembra proprio il massimo, quindi mi sembra bello poterlo fare insomma. Ah, poi c'è un altro particolare, se posso dirlo, visto che siamo a Radio Onda Rossa, no? C'è di San Lorenzo, no? Io siccome sono sanlorenzina, abbiamo già scritto uno spettacolo su San Lorenzo che voi avete spesso mandato, Pane, Latte e Lacrime. Sì, sì, sì, anche questa storia è una famiglia che vive a San Lorenzo, così me la sono immaginata là. perché insomma volevo trattare un'umanità, una famiglia con difetti, le loro grandezze e miserie, una famiglia di gente semplice. Vabbè, questa è una suggestione in più per dire che il quartiere ritorna, insomma. La campagna di crowdfunding per lo spettacolo Gregory, una storia di famiglia, un saluto e un ringraziamento a Veronica Liberale. Grazie a voi, grazie per l'opportunità, grazie. Siamo all'agenda della settimana per gli eventi culturali e per il teatro con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentrovati. Dunque, direi che è il caso di muoverci da casa ed andare a occupare la sala teatrale. Allora, cominciamo dal teatro Tor Bella Monaca, dove domani e dopodomani, 2 e 3 febbraio, avremo una regia di Giancarlo Nicoletti, giovane regista che porta sulla scena un testo legislativo dei diritti che si chiama Persone naturali e strapotenti, e si tratta di un'opera controversa, di quella, insomma, è una tragicommedia cruda, poetica, desiderante del drammaturgo Patrone Griffi, che è in equilibrio un po' tra l'ironia tagliente, il surrealismo, le situazioni grottesche, il cinismo. In scena ci sarà una vecchia conoscenza della TV e del teatro italiano, ovvero sia la napoletanissima Marisa Laurito, che però da un po' di tempo si sta affacciando di nuovo a tornare in scena per affrontare qualche testo un po' particolare, rimasto magari nel cuore. E a seguire sempre a Tor Bella Monaca, dal 4 al 6 febbraio invece tocca ad Alessandro Benvenuti, che porta in scena questo Certi di esistere, uno spettacolo con di cui cura il testo e appunto la regia. In scena però ci saranno 6 diversi attori e una frase ci resta: non è vero che si vive una volta sola, si vive ogni giorno e si muore una volta sola. Ecco, diciamo, per rimettere a posto un po' questa questione, è interessante e particolarmente utile a vivere un po' meglio, diciamo, la nostra vita. Quindi la storia di questi 5 attori salvati e vissuti da sempre all'ombra di un autore padre padrone, che gli ha dato la linfa affinché i destini, nati sotto cattive stelle di ognuno, si ammantassero delle vesti del successo e del talento. In qualche modo una sorta di continuo di personaggi cerca l'autore, in cui i 5 sono attori e sono però il numero minore, ma c'è questo autore padre padrone che un po' ci ricorda il Pirandelliano dei 6 personaggi. Ora andiamo alla Fortezza Est, perché, come già ricordato, Valerio Gatto Bonanni cura la regia del progetto Semivolanti, Altri Mondi, Bike Tour, Siamo Moltitudini, Batteri, Simbiosi e La Vita che Non Vediamo. Insieme a Valerio Gatto Bonanni c'è Guido Bertorelli, che cura il progetto, ed è un lavoro molto interessante che porta all'attenzione del pubblico la frontiera della vita, il microbiota. Queste ultime frontiere della scienza appunto sviluppano la nostra curiosità, e in un'epoca come questa, insomma, in cui siamo particolarmente attenti ai batteri, ai virus che da miliardi di anni, insomma, sono a contatto con la vita sul pianeta, ecco appunto questo discorso sulla divulgazione scientifica e sull'ecosistema dei batteri, raccontato attraverso la relazione tra il nostro corpo e l'ambiente, e soprattutto mettendo sotto attenzione il cervello intestinale, cioè la fonte della produzione delle emozioni. Siamo Moltitudini, nel secondo capitolo del progetto appunto Altri Mondi Bike Tour, che ha portato il teatro a viaggiare in bici per 2500 km con appunto la sperimentazione di buone pratiche ambientali, con spettacoli, spazi teatrali e non convenzionali di città dal nord al sud Italia. Quindi 3, 4 e 5 febbraio negli spazi della Fortezza Est alle 20:30 per questo Siamo Moltitudini, spettacolo secondo me da non perdere in assoluto. Poi, come già detto, al Teatro di Documenti arriva sabato e domenica 5 e 6 febbraio Dialoghi sulla merda d'artista, il testo di Filippo Soldi, che cura anche la regia ed è dedicato alla grande artista Piero Manzoni, appunto autore della merda d'artista, come un po' tutti sanno, che moriva di infarto esattamente nella notte tra il 5 e 6 febbraio del 1963 a soli 29 anni, pensate un po'. Proprio 2 anni prima aveva realizzato questa opera famosa e discussa in tutto il mondo, questi 90 barattoli di latta venduti a prezzi esorbitanti, con un'etichetta che dichiarava in 4 lingue il contenuto: 30 grammi di merda d'artista. le quattro lingue, appunto, una è l'italiano, tedesco, inglese e francese. Da questa scatoletta parte lo spettacolo, siamo al 60° anniversario della scatoletta e quindi questo spettacolo prende le mosse proprio da questa ricorrenza. La Merda d'Artista a teatro, quindi, dialoghi sulla Merda d'Artista Filippo Soldi con la Fondazione Piero Manzoni al Teatro di Documenti 5 e 6 febbraio. Poi, ancora, direi che è il caso di andarcene anche all'Off of Theater, perché 2 e 3 febbraio andremo a vedere questa drammaturgia di Valdo Gamberutti di e con Giulia Liquilio, ed è un lavoro dedicato alle grandi dive del burlesque, Un passato senza veli. Giulia Liquilio porta appunto in scena insieme a una live band più strumenti con sax, clarinetto, pianoforte, batteria e contrabbasso, questo lavoro appunto dedicato al burlesque, una sorta di one woman show che affronta in modo nuovo questa arte che mescola prosa e striptease, musica e storytelling, e racconta le origini, i segreti e anche il mito che si è creato dalla sua ideazione fino ad oggi. Un passato senza veri all'Off of Theater 2 e 3 febbraio con Giulia Liquilio. Poi sicuramente andremo al teatro Lo Spazio, perché dal 3 al 6 febbraio andremo a vedere questo completamente esaurito spettacolo, testo di Becky Mood, direttamente da Broadway, questa commedia divertente con la regia di Antonia Di Francesco, e la traduzione e l'adattamento l'ha fatto un mio omonimo, Davide Nebbia, che io in realtà non conosco, non è mio parente, scopro avere, diciamo, un omonimo che si occupa di teatro a Roma e che a questo punto vorrò conoscere. Un giovane impiegato alle prese con il centralino di un rinomato ristorante stellato, frequentato da VIP star e aspiranti tali. Questa è l'ambientazione del personaggio, appunto, interpretato da Davide Nebbia, completamente esaurito, di Becky Mood, al teatro Lo Spazio dal 3 al 6 febbraio. A Teatro Parioli andiamo anche questa settimana, perché c'è uno spettacolo che dobbiamo assolutamente seguire, e dal 2 al 13 febbraio, quindi da mercoledì, da domani, debutta l'ultimo lavoro è realtà di Filippo Dini, ecco, che dirige Valerio Binasco, di due attori e registi, l'uno è il regista dell'altro in molti casi, spesso è Valerio Binasco la regia, in questo caso è Filippo Dini che dirige Valerio Binasco, che è lo stesso Filippo Dini in scena, e questo The Spank, l'ultimo lavoro di Hanif Qureshi, che appunto ha tradotto la Monica Capuani, sarà appunto in scena dal 2 al 13 febbraio al Teatro Parioli. Qureshi è uno scrittore, insomma, di fama internazionale, e questo spettacolo è un testo che attraversa uno spettro di emozioni, la consuetudine tra due amici di lunga data diventa una lente di ingrandimento per osservare lo spaesamento della contemporaneità, con il senso dell'umorismo e anche con una certa dose di malinconia. Si tratta appunto di una storia di un'amicizia che nasce da un'abitudine che, dice l'autore, che lui ha da 2 anni, vedere un amico una o due volte alla settimana in un caffè di quartiere. Stranamente ci mettiamo seduti uno di fianco all'altro, in parte perché io mi devo sistemare vicino all'orecchio, quindi funziona, io e mio amico beviamo un po', talvolta mangiamo, ci lamentiamo molto, parliamo del più e del meno e vediamo come va. Questo, appunto, la storia di Sanni Vargas, due amici da molti anni, è quello che appunto porta due amici in scena, Filippo Dini e Valerio Binasco, per The Stank, dal 2 al 13 di febbraio. Questa settimana andiamo anche in altri due teatri che ritengo particolarmente interessanti. Il primo di cui parlerei è il Teatro India, perché dal primo, da questa sera, fino al 6 di febbraio sarà in scena uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino, lascia ad intendere che questo smarrimento è stato scritto proprio per l'attrice Lucia Mascino, quindi è un lavoro nato in qualche modo insieme, un incontro tra la drammaturga e l'attrice, un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, spiega Lucia Calamaro, di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto appare o sbuca, ci incrocia, insomma, creando presenza dove prima c'era assenza. C'è una frase di Cesare Pavese in esergo: l'unica gioia al mondo è cominciare, e chissà, forse potremmo anche noi cominciare, ma invece cominciamo ad andare a teatro un po' di più, ma invece andiamo a concludere, perché andiamo a ricordare l'ultimo spettacolo della settimana, e si tratta del Teatro Biblioteca Quarticciolo. Le date sono 5 e 6 febbraio, lo spettacolo è Caligola Underdog Upset, del Teatro del Carretto, personaggio di Caligola che sempre è stato attraversato da molti registi, una figura che viene insomma dalla storia imperiale romana e che è sempre stato prototipo, esempio, modello di indagine nella natura del cervello umano e della depravazione un po' che coglie il rapporto tra l'uomo e il potere. Quindi dal 5 al 6 febbraio Caligola Underdog Upset, il regista è Jonathan Bertolai e l'attore è Ian Gualdani. Dico due cose su questo spettacolo. Io l'ho visto tempo fa, ne ho anche scritto, quindi su Teatro e Critica trovate anche la recensione, ed è un lavoro molto molto interessante. Ian Gualdani è un attore come se ne incontrano pochi. Jonathan Bertolai, che è cresciuto all'interno del Teatro del Carretto, ora porta finalmente la sua visione in scena e davvero è un regista di cui sentiremo parlare. Per esplorare dunque il dramma interiore, il mondo giovanile e i dubbi verso il futuro, il personaggio di Caligola sarà in scena 5-6 febbraio al Teatro Biblioteca Quarticciolo. E con questo abbiamo concluso. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.